E rieccoci per la puntata 18 di Geek Cookies. Salve a tutti, qui è Mario, come al solito, che vi porterà per mano per questa breve puntata di una piccola raccolta di cose interessanti, come al solito. Questa è la seconda puntata mensile in cui vi parleremo velocemente, più corta, in maniera un po' più concisa del solito, di qualche cosa che ci ha interessato, novità, eccetera. Quindi io sono qui e insieme a me stasera c'è il buon Francesco. Ciao Francesco. Ciao e bentornati a tutti. Siete pronti a mettere le mani sulla carta di credito? Perché questa è la puntata giusta. Infatti, vabbè, dai, stasera parleremo anche di molte cose che sono molto fai da te, quindi non devi spendere tantissimo. Quindi non... Vero, dai, cerchiamo di non indurre in tentazioni costose. Esatto. Mettiamola così. E infatti, diciamo, proprio su questa linea, qua è la prima notizia, è uscito... Allora, esatto, la prima... notizie che bisogna spendere, esatto, perché è uscito il Raspberry Pi 3. Io ho già speso ed è già tra le mie mani. Esatto. Perché visto che l'altra volta, non so se te lo ricordi, ho comprato il 2 e due giorni dopo è uscito, esatto, il 2 Plus. Adesso è uscito il 3 e l'ho comprato al giorno di uscita. Io aspetto che esca il 4 domani a sto punto, visto che hai comprato tu il 2 e il 3, quindi... Speriamo di no, perché potrei arrabbiarmi parecchio. Comunque ho mi pare i 30 giorni di reso con RS, okay, Components, no? Quindi uscirà fra 31 io giorni. Ho parlato con la Foundation Raspberry, aspettano 31 giorni, esatto, 32, una roba così comodo. Grazie. Ottimo. Comunque. Senti, allora, comunque tu l'hai acceso o l'hai solo ricevuto per adesso? Ci hai dato già un... Allora, diciamo che ho bestemmiato parecchio perché avevo due schede micro SD, tutte e due ciucche. Comunque sono riuscito a fare il primo boot. Okay. Il boot ha con l'interfaccia grafica, quindi non solo riga di comandi, ci mette dai 12 ai 15 secondi, quindi meglio, è molto rapido. Sì. Migliorato rispetto... Io ho ancora il Raspberry B1, che sono delle lumache inimmaginabili. No, questo qui è davvero migliorato. La Wi-Fi dall'interfaccia grafica è di una semplicità mostruosa. Nel senso che clicchi, cerchi la rete, password ed entri senza nessun problema. Io ho trigato un po' perché il mio router Wi-Fi MikroTik era su un canale che evidentemente a questo chipset non piaceva molto e la rete non si vedeva. L'ho spostato sul canale 6 e ora funziona. Ok, quindi va, diciamo. Sì. Non scalda tanto, ha una caratteristica che è passata un po' in sordina, che secondo me, oltre alla faccenda che ha il Wi-Fi e il Bluetooth di serie, ha i circuiti elettrici che supportano un power fino a 2,5 A. Quindi se attacchi un hard disk USB autoalimentato non si incarta tutto. Ok. E questa mi sembra una notizia buona, perché così... puoi farti il tuo media center USB, non SATA come altre schede, ma senza doverci mettere un alimentatore aggiuntivo. Ok, questa è un'ottima cosa, visto che moltissimi lo utilizzano come NAS, come me, così. Infatti. Ok, giusto per... facciamo una ricapitolazione veloce, per chi non abbia seguito questa cosa. Il Raspberry 3, cioè, questo ovviamente è un B3, perché la linea è quella, diciamo, più top. C'è sempre una versione A e B dall'inizio. Anzi... La A3 ancora non è uscito, però penso che uscirà. Ma penso che la A3 lo sostituiscono con lo 0, sai? Così a occhio. Potrebbe essere, però è un po' diverso come target. Comunque, sì, vero. Fondamentalmente hanno aggiornato il chip del SoC, che è un la Broadcom, ha costruito un nuovo chip appositamente per la Raspberry 3. Tra l'altro si chiama Broadcom, quindi il BCM2837, che è un quad-core ARM Cortex A53 a 1.2 GHz, è un po' più veloce del Raspberry 2. La GPU è rimasta la stessa, la RAM è rimasta la stessa, se non sbaglio hanno lievemente aumentato la velocità della cache di secondo livello. E poi ha sempre le solite cose, praticamente da fuori sembra un Raspberry 2 o un 1 praticamente, se mi puoi... Allora, il form factor è esattamente lo stesso, infatti entra perfettamente nei box del 2B+. Okay. Plus. Quindi praticamente hanno fatto in modo... Io tra l'altro ho sentito anche un po' di un'intervista direttamente a... Come si chiama il presidente della Foundation? Epton. Dice, questo hanno cercato sempre di tenere tutto uguale, hanno cercato di non levare nessuna feature. Ah, che no, non me lo ricordo, mi fai la domanda difficile. Apton, mi ricordo, vedrò. Intanto, tanto che parlo, cerca un attimo. Comunque, Apton qualcosa. Apton, beh, non lo so. Hanno cercato di tenere tutto uguale come forma, come ingressi, quindi ci sono anche tutti gli ingressi riusciti che c'erano prima, tutti i GPO, audio, video, eccetera. E hanno cercato fondamentalmente di migliorare solo alcune cose, quindi hanno messo in più la Bluetooth, la wireless, che è una cosa che moltissimi chiedevano. E una cosa interessante che ho sentito è che sono stati qualcosa come 2 anni e mezzo in lavorazione per produrre questo piccolo oggetto, mentre diciamo lo zero, per esempio, c'è stato un processo di un ciclo di produzione di circa 9 mesi in totale. Il grosso problema di questo è stato fondamentalmente la wireless, perché tu quando aggiungi oggetti che trasmettono radio devi avere certificazioni in quasi tutti i sai del mondo. E mi diceva in questa intervista che hanno speso diverse centinaia di migliaia di sterline per poter avere la certificazione, e lavorandoci 2 o 3 persone per un paio d'anni per progettarla e fare in modo che passasse la certificazione e poterla vendere un po' in tutto il mondo. Quindi è stato un bel lavoro che hanno potuto fare dopo aver venduto i milioni di P prima del 3. Quindi non so, tu già l'hai preso. Io ne avevo parlato anche, se vieni sul nostro ultimo canale di discussione, quello su GitHub, che si chiama Geek Talks, io ero lievemente scettico, sono ancora un po' scettico, nel senso, se avessi un 2 non prenderei un 3 perché è un miglioramento. Io ho sentito parlare di ipotetici miglioramenti fino a 10 volte rispetto al Raspberry 2, ma nel mondo reale di un po' di meno, tipo 5 volte, una roba così. Beh, ma già 5 volte non è, no, non è male. Sì. Tieni conto che però, per come l'ho acceso prima che mi si corrompesse la SD e quindi andasse tutto a pallino, per esempio, non so se tu hai mai aperto LibreOffice sul Raspberry 2. No, non veramente mai usato. Io non ho il 2, tra l'altro, l'1, penso che esplode. Ah, perfetto. E se tu apri, io ho il 2, quello prima serie, quello con solo 2 porte USB. Mentre ci faccio cavo, aprire il LibreOffice era da lo apro, mi piglio caffè e torno. Adesso 10 secondi e si apre. Beh, ma infatti ho letto in diversi forum, fondamentalmente siamo passati da un chip, diciamo, siamo passati dal livello simile Arduino eccetera a computer. Cioè il 3 sì, è un computer adesso, fondamentalmente. È un computer, tra l'altro, se dovete comprare un PC per vostro figlio per farlo divertire e avete un vecchio monitor e una tastiera, comprate il 3, secondo me è la scelta giusta. È ovvio. Esatto. È ovvio che se deve fare dei videogiochi, no. Vabbè, volendo, per Scratch puoi fare dei videogiochi. No, no, ma dico se ti vuoi scaricare le cose da Steam, no, punto. No, però Minecraft. Minecraft ce l'ha già di default, e tra l'altro è l'unica piattaforma su cui Minecraft, se non erro, è gratis, perché tutte le altre sono tutte a pagamento. Ma potrebbe essere, non l'ho mai provato anche quello, però stavo quasi pensando di dargli un'occhiatina, perché sembra interessante. Allora, ne parlavo, ieri è uscita la discussione. Abbiamo delle persone a cena con una ragazzina piccola, ho scoperto che lei giocava a Minecraft e mia moglie mi ha chiesto cos'è. Ho detto vabbè, a sto punto adesso lo accendo perché penso anche sul B dovrebbe andare, o se no glielo metto sul Mac e vediamo. Mm-hmm. Quindi potrebbe interessarsi una cosa che è abbastanza nerd come è fatta. Perché... Ma io Minecraft, devo essere sincero, ho tutti i miei limiti, ancora non ho capito com'è che si gioca, però ci stai, prima fai o poi cose. Mi ci metto su e provo. Fai cose, costruisci, un po' come Second Life, secondo me, però... Ah, ecco, ma a blocchettoni. Esatto, digitale, a 8 bit. Bene, senti, bene. Ok, quindi con questo... E direi che altre cose non sono cambiate, nel senso che la scheda Ethernet è sempre una 100 mega sul bus, esatto. USB. L'USB è sempre una USB 2. Se volete dell'audio decente, andate sul sito dei vari produttori degli Shield con i DAC audio, perché l'audio sulla scheda è comunque di livello medio-basso. Manca, per ora, c'è l'hardware a 64, ma il sistema operativo è a 32. Vabbè, infatti in realtà in questa intervista che dicevo con il presidente della Foundation, loro dicono che non hanno fino adesso trovato una dimostrazione che su hardware ARM, e per quello che fanno loro, ci sia un netto miglioramento su un 64 rispetto a un 32, quindi per questo non hanno spinto per produrre una Raspbian, che arriverà. Però Mi sa che qualcuno sta provando a fare distribuzioni sperimentali Bateo 64, quindi cercate un po' in giro, probabilmente le trovate, però per adesso, come sì, dice Francesco, poi... quella base... Tenete conto che comunque il 64 è comodo se avete tanta RAM, e che qua la RAM è sempre da un giga. Esatto. Ecco, secondo me per quello che costava potevano anche metterne due. Sì, vabbè. Alla fine ci sono potuto cambiare moltissima roba, il problema loro è rimanere nel prezzo. Sì, ma infatti loro vincono sulla questione prezzo, perché di schede di livello più alto ce n'è tante. Partiamo dalla U2, c'è la Pine 64, c'è, come si chiama, la Odroid, fa delle bellissime schede. Tra l'altro molte hanno il SATA, che su Raspberry manca, ed è una mancanza grossa secondo me. Però comunque non sono proprio SATA, se non sbaglio, è una roba particolare. Ma sulla U2 mi pare sia SATA. Dico, sulle Odroid ho visto, era un attacco per dei mass memory strane. Sì, che tra l'altro quelle memorie che montano su Odroid sono velocissime, ma costano una schioppettata. Sì. E però il fatto è che nessuna scheda con le prestazioni che ha il Raspberry costa meno del Raspberry, essenzialmente. Infatti io stavo vedendo un benchmark di Raspberry 3 e altra roba, compresi Raspberry 2, 0, eccetera. E ovviamente i Raspberry... ci sono schede migliori e peggiori, se lo trovo ve lo metterò nei link, ma la cosa che mi ha sorpreso alla fine, c'era una cosa che non vedi mai, ed era il qual era la scheda più conveniente per dollaro speso in performance, e stranamente vinceva lo zero, perché è talmente poco costoso per quanto non sia performante. Ma lo zero costa come la ESP 82, sì. Come diavolo si chiama? Come un cappuccino e un cornetto, una roba così. Sì. Ma così passiamo al secondo punto e non ci focalizziamo solo sul Raspberry 3. Il difetto grosso del Raspberry Zero è che non ce n'è. Esatto. Nel senso, io prima pensavo, c'è la Raspberry Foundation che ha dei problemi di produzione. Poi è uscito il 29 di febbraio il Raspberry 3, nessun problema di consegne, ne ho ordinato uno, il giorno stesso me lo hanno spedito, finito, quindi significa che ce n'è, quindi significa che loro sono in grado di farli, e quindi perché cavolo lo zero non ne fanno? Ma secondo me perché i margini di guadagno sono minuscoli, quindi ovviamente spingi più su quello, già sulla Raspberry penso che guadagnino poco. E se però, cioè, se hai fatto una scheda che è lo zero, che non ha un modello di business serio, non farlo, non metterlo in vendita. Secondo me era più adatto per inserirsi in questo modello dell'IoT sensoristico. Io lo sto aspettando e sto progettando la mia rete di casa basato sullo zero, nella speranza che in un paio di mesi li caccino, però... Però lo zero da cosa è uscito? Da 4 mesi? 5 mesi? Sì, è ancora... E io continuo a ricevere le mail da Piat o da Pai Moroni che guarda, è disponibile, ma solo uno. Vado 10 minuti dopo, finiti. Okay, ma è solo uno, tra l'altro, quella cosa che io odio, perché le sue spedizioni sono enormi, cioè una roba impossibile proprio da fare. Io sto aspettando per farmi le cose a casa, che su Amazon me ne possano vendere 10, sì, spendo, esatto, 50 euro e chi si è visto si è... Vabbè, visto. Guarda, tra domanda è maggio, dovrebbe arrivarmi due chip, quelli da $9, che dovrebbe avere anche un sacco di, anche il wireless integrato, eccetera. Quindi se quelli vanno meglio a sto punto, si sono dati la zappa sui piedi. Sì, io comunque ho letto un post sul sito della Raspberry dove dicono che nel giro di 3-4 mesi dovrebbero raggiungere le 30-40 mila schede prodotte. Secondo me continuano ad essere poche, però vediamo che cosa riescono a... Vabbè, aspettiamo fare. E vediamo. Io a me lo zero piace, sto lavoricchiando un po', poi mi cacciano un progettino di sensoristica che sto facendo basato sullo zero. Bah, se lo cacciano, bene, le compro. Se non lo cacciano, spendo $5 in più e mi prenderò chip o ESP, basato su ESP, che devo fare. Sì, oppure si decidono, abbassano il prezzo del Raspberry A, e non ha senso più, tra l'altro, tenerlo così. No, cioè per quello che va e per quello che costa il Raspberry A è carissimo. Sì, ma tra l'altro lo zero mi sa che è un po' meglio della, cioè un B+. Sì, sì, esatto. Sì. Quindi, decisamente, vabbè. Sì. Ok, quindi questo lo Quindi diciamo, mettiamo un sacco di ma e boh a questa notizia dove loro dicono che ce ne faranno. Noi aspettiamo, però vedremo. Vedremo, okay. Giusto, allora, giusto. Il prossimo punto è una lagna, quindi ti allora, ti il lascio. Prossimo punto è l'altra volta nella puntata... tipo questa qui, quella lì del spendete tanto, io e Giuliano abbiamo parlato di queste lampade smart RGB alternative alle Philips Hue, e che costano anche poco. Vorrebbe vedere. E per il compleanno mi sono fatto comprare una di queste lampade, una Natuled, 40 euro. La lampada la prendi, la monti, ti scarichi l'app, ti colleghi in 25-30 secondi netti, la usi. Quindi accendi, spegni, cambi colore, se hai la musica sul dispositivo, lei lampeggia a suon di musica, eccetera. Ne compri 3, 4, 5 e puoi fare i gruppi, quindi tipo accendi tutta la sala, tutto quanto giallo, ne hai 5 e hai tutta la luce gialla. Allora, quando ero giovane facevo le robe di DJFS, sarebbe stato un sogno tutto ciò. Bellissimo, sì. Tra l'altro fa anche parecchia luce, nel senso che non dico che è un 100 watt, ma secondo me all'equivalente di 70 watt di luce ce la fa, quindi... Quanto consuma, per curiosità? 6 watt. Madonna, è un buon compromesso. No, scusa, 9. Ok, rispetto a 70... Sì, beh, è comunque LED, tra l'altro è LED RGB white, quindi quando vuoi il bianco lui ha il LED bianco, non fa la somma. L'ho sentita la puntata vecchia, comunque ecco. Confermo. E il problema è che io stavo cercando di interagire con questa lampada in un modo diverso dall'app, non esiste niente su internet, ho scritto... Allora, al form via web non mi hanno risposto, al messaggio su Facebook non mi hanno risposto, mi hanno risposto via mail al terzo tentativo, e gli ho chiesto, ma c'è un modo per poter parlare, sviluppare il codice io, e mi hanno detto, chiaramente no, funziona solo con l'app, punto. Quindi non si integra con niente. Questo è negativissimo, questa cosa. IFTTT non funzionerà mai, zero. Quindi se volete comprarvi delle lampade che costano poco e dal telefonino accendere la luce della sala e farla rossa, ok. Se volete integrarla un minimo, lasciate perdere, perché tanto non si integra. Mi sono persino messo a fare un po' di scan di rete. Io ho il router MikroTik, che è abbastanza avanzato come software, e ho cercato di capire come passavano i pacchetti dal mio telefono alla lampada. Non ho visto niente, non ho capito come funziona, quindi starà lì molto molto carina, magari la metto da qualche parte dove è carino avere della lampada soffusa di un certo colore, ma se... Devo essere sincero, se dovessi prendere delle altre lampade RGB a sbattimento zero, mi compro le U della Philips. Ci stanno, c'erano anche quelle altre che aveva, di cui aveva parlato Giuliano, no? Ma non sono a sbattimento zero, perché quelle sono da programmare, montabili con l'ESP, eccetera. Cioè, quelle sono per i nerd duri e puri. Esatto. Ma se io voglio che la lampada mi si accenda quando mi mandano la mail, attualmente il sistema più comodo, anche se è caro, è Philips Hue. Tra l'altro Philips Hue, a proposito di questo, come dicevi, ha ben pensato di eliminare la loro chiusura totale, per lo stesso problema che stai dicendo adesso. Cioè, se io devo... Sì, ma perché si sono accorti che non avrebbero più venduto niente. Cioè, se ora nel mondo, e sembra strano, ma è così, gira tutto su IFTTT. Un sacco di interazioni sono fatte con IFTTT. Se tu togli qualunque tipo di attività, che cosa te ne fai di una lampada smart che è smart solo sul tuo cellulare? Te la vedi tu, ma infatti questo è quello che dove faccio sempre la distinzione tra come dire, gadget geek, quelli di cui parliamo noi, i cazzilli di cui parliamo, che sono cose che sono, come dire, non è una roba quasi mai che tu compri, accendi e usi. Quello per me è più elettronica di consumo. Cioè tu compri... Ma infatti le U sono elettronica di consumo. Che non sono male, però servono a fare quella cosa per cui la Philips decide. Se domani decidono davvero, vuoi parlare con le lampade U solo con il cellulare Philips, voi sarete solo quello e ciao. E non potete ribellarvi, perché quello è. Se invece prendete quelli con la ESP, vi sbattete, però potete farci fare quello che volete. Ne sono assolutamente convinto. Infatti, quello che effettivamente è il futuro è l'open. Infatti, magari ne parleremo in una puntata prossima. Hanno fatto una fondazione per l'IoT Open, per definire un protocollo standard in modo tale che la gente ci possa scrivere le cose sopra. Ok, questo è interessante come cosa. Sì, devo averlo sentito al podcast di 2024, devo andare a cercare i riferimenti. Uno dei problemi di questo cosiddetto movimento IoT è che non esiste uno standard, cioè ognuno si alza la mattina e dice no, allora io parlerò tramite XB, però solo a questa frequenza, solo in questo protocollo, così cosa, tutto chiuso, certificato e ciao, e non lo usi più. Verissimo, vero vero vero. Ma ok, bene, quindi non comprate le lampade della Natuled. Se poi comprate su Amazon mi pagate l'avvocato, perché loro mi faranno causa dopo aver sentito il podcast. E infatti questa è un po' pubblicità al contrario in genere. E non pubblicità. Ok, bene, il punto successivo, prego. Perfetto, allora, dato che noi siamo, come dicevo, non siamo convinti che lo zero diventerà subito disponibile, però seguiamo un po' quello che stanno facendo. Una cosa carina era su HD, avevano lanciato un concorso dai vari progettini basati sullo zero e in collaborazione con Adafruit, e la settimana scorsa, se non sbaglio, hanno tirato via lo slot dei primi vincitori. Alla fine, se non sbaglio, vinci uno zero, quindi noi siamo a livello di HD, direi che abbiamo già fatto un concorso e abbiamo già dato uno zero. E tra questi ne ho letti un po', ne ho trovati un paio interessanti, non solo, come dicevamo prima, non solo per quello che fanno, quindi anche volendo tu ti compri in questo caso un paio di PCB, te le compri, le monti e le usi, però è carina la descrizione. Tra questi 10 ne ho scelti due, che sono l'RP Wi-Fi, che praticamente è banalmente connettere un ESP 8266 al Raspberry Zero, cosa che si potrebbe fare, diciamo, si fa, però come il tizio l'ha fatto è molto interessante, perché si è messo a studiare cosa c'è nel chip Broadcom. Prende nel chip Broadcom ultimo, quello dello zero, l'interfaccia che viene utilizzata per leggere la SD card utilizza un protocollo che si chiama SDIO, che è quello che utilizzano quasi tutti gli oggetti che leggono l'SD card. Però questo protocollo al giorno d'oggi è usato pochissimo, perché quasi tutti le interfacciano poi con un chip USB, con un adattatore e via. La cosa carina è che nel chip Broadcom ci sono due parti dedicate all'interfaccia SDIO. Una va nella scheda USB e nella scheda della memory card, e l'altra è praticamente inutilizzata. E sto ragazzo, sto tizio, non so l'età, ha scoperto che nelle ultime versioni della Raspbian per Raspberry si può rimappare due piedini della GPIO per diventare piedini per leggere interfaccia SDIO. E da apparentemente una, come dice lui, un'odissea di documentazione in cinese, forum, richieste, è riuscito a trovare alcune documentazioni della Express IF, che è quella che produce il chip ESP, su un chip precedente, in cui i chip precedenti utilizzavano per fare il flash del firmware in condizioni particolari l'SDIO. Quindi, riuscendo a smanettare nella configurazione, è riuscito a trovare un modo per far comunicare l'ESP tramite questo protocollo. Quindi, fondamentalmente, Raspberry comunica sui piedini 26-27 con SDIO pensata per una memory card. Dall'altra parte, al posto della memory card, c'è l'ESP che comunica con Raspberry tramite sempre SDIO, e l'ESP a sua volta comunica con la wireless. Quindi praticamente è riuscita ad aggiungere la connettività wireless senza utilizzare l'USB, che è preziosissima su Raspberry, e in maniera, penso, molto molto furba. Cioè, questo è un vero hack, secondo me. Quindi devo dire, sono stato molto contento di leggere e imparare quello che lui ha fatto, quindi molto molto... Soprattutto è un hack di un certo livello, nel senso che c'era qualcuno che aveva già fissato un piccolo hub USB dietro Raspberry Zero per avere altre quattro porte, ma questo è l'hack vero. Tra l'altro, se non mi ricordo male, poi devo andare a vedere nell'articolo, lui dice... mi ricordo, c'era un articolo su HD che avevo letto anch'io, in cui avevano scoperchiato un ESP e far vedere cosa c'era dentro, quindi la maggior parte erano banchi di memoria E lui però da quello mi ricordo che c'era una parte dedicata ai protocolli, eccetera. Quindi una roba assurda. C'è qualcuno che davvero va a leggere tra le righe di ogni cosa che trova in giro. Quindi davvero, veramente interessante. Quello lì. Beh, non per niente quando escono le soluzioni nuove c'è sempre qualcuno che va a cercare di capire se si possono hackerare, modificare, bloccare, eccetera, Migliorare, no? direi, in questo caso. Giusto, giusto. Sì, perché in effetti se facessero il Raspberry Zero con la Wi-Fi che hanno messo sul Raspberry 3, sparo a $10, ne comprerei comunque 10. Sì, mamma su, penso che ne venderebbero milioni a quel Sì, punto. senza ombra di dubbio. Signori della Raspberry Foundation, ascoltateci per Ma io cortesia. stavo vedendo prima nell'articolo che linkeremo quando parlavamo del Raspberry 3, è che il chip della comunicazione wireless che hanno messo, all'inizio si parlava sempre di un Esper, poi hanno fatto sviluppare un altro sempre da Broadcom. Quindi non so i prezzi, perché l'Esper è una cosa davvero, davvero poco costosa. Beh, ma secondo te Broadcom che integra all'interno dello Sì, stesso chip tutto. l'ARM Sì, hai ragione. e il Wi-Fi te lo fa salire di 5 centesimi al pezzo? 10 Un centesimi? centesimo, penso i milioni che fanno. Hai ragione. Ecco. Beh, probabilmente no, Quindi. non pensano che forse faranno uno 0.2. Potrebbe essere una cosa veramente molto molto figa. Con Bluetooth e wireless integrato sarebbe una bomba. La fine di tutte le altre schede, persino di No, ma Arduino, tutto, secondo se, me. addio. Cioè, Sì. ottimo, perfetto. Quindi questo era il primo. Il secondo progettino, questo secondo me è una cosa che potrebbe toccare anche a te le corde, diciamo, dei tuoi ricordi d'infanzia. Vedete, questo ragazzo ha progettato, lui si è fatto un computer homebrew basato sullo Z80, quindi sul Lo Zilog. Z80, Esatto, se vedi le oddio! foto è fichissimo. Le ho guardate, ma Bello, eh? quando mi hai mandato il link, anche nella puntata scorsa che ne abbiamo parlato con Colombinio, mi sono rivisto a inserire su sta caspita di scheda per sviluppatori gli esadecimali dei programmi che Madonna, facevo, una roba pazzesca, la storia sembra, proprio. sì, sembra che tu e Turing avete fatto insieme queste cose. Al giorno d'oggi, per i ragazzi giovani, penso che sia impensabile. Ma no, ma il ragazzo giovane la cosa più a basso livello che fa è programmare nel simil C di Arduino. Cioè non è che ci siano cose più basse, di livello più basso. All'epoca dovevi sapere come sono fatti i registri, come è fatta la cache, dove devi mettere i singoli dati prima di fare il calcolo. Tra l'altro lo Z80 non faceva le divisioni. Te dovevi inventare, Quindi te dovevi. Oddio. dovevi fare i cicli di sottrazioni. Una roba allucinante. Ora è tutto molto più Beh, facile. come diceva un Colombini, quello lì c'è la differenza tra chi sa come è fatto sotto. Io, per esempio, non ci sono in questo giro. E chi usa quello che ti viene dato oggi. Secondo me, guarda, c'è anche un valore aggiunto, nel senso. Anche nel mio campo, se io dovessi mettermi a rifare tutto da zero e sapere tutto nel minimo dettaglio come funziona e come costruirmi tutto quello che io uso, non potrei mai andare avanti. Quindi costruire su quello che già gli altri hanno fatto è una, diciamo, caratteristica umana generale. Quindi tu puoi andare Beh, molto più avanti, puoi saltare molto più in là se stai con linguaggi di alto livello, cose del genere. ma è per quello che fanno. Tu non so se conosci lo stack ISOSI, Sì, che sì. è l'esempio di come l'uomo sia andato avanti. Hanno preso un problema enorme, lo hanno diviso in pezzetti facili, facili, facili, e hanno definito quali sono i linguaggi da usare per comunicare tra un pezzetto e l'altro. Esatto, ma infatti. Nell'attimo in cui tu hai la parte di hardware che deve parlare con il livello subito sopra, sempre nello stesso modo, tu fai il filo, fai il wireless, fai la fibra, fai qualunque È cosa, uguale, parlano sì. tutti nello stesso modo con il livello successivo. Lo sostituisci e via. E chi sviluppa il livello sopra non ha bisogno di conoscere tutto quello che sta sotto, Esatto, sa esatto. che si parla così, Quello che punto. dicevo, se poi tu vuoi fare un hack come quello che dicevamo prima, in questo caso su qualche protocollo di comunicazione, devi sapere ovviamente come vengono mandati i bit, come il timing, tutto quello che ti Beh, serve. se ce n'è bisogno, poi sai che puoi andare a imparare e a studiare come la E che faccenda. è Giusto? aperto. Ricordiamo, esatto, Bravo, perché bravo. altrimenti fai la fine di. Ti attacchi al tram. Esatto. Ok, senti, giusto per dare una carrellata, fondamentalmente per finire il discorso su questa roba, è che questo ragazzo aveva fatto questo computer homebrew basato sullo Z80 e però non riusciva ad attaccarlo a niente. Quindi si è messo e ha costruito uno piccolissimo PCB da attaccare allo zero, che gli permette di avere in uscita quello che vuoi, le uscite video dello zero, che quindi c'ha l'HDMI integrale, se non sbaglio ha fatto anche un'uscita composita sulla sua PCB. Quindi lui prende il suo bel computerino fatto a casa da Z80, lo attacca al televisore di casa, se lo vede a HD, diciamo. Quindi fantastico. Io mi ero scritto anche cose che io non sapevo, perché non sono un espertone come te, ma lo Z80 è stato utilizzato praticamente in qualsiasi cosa famosa dell'inizio del videogame. Sì, sì, ma lo Z80 era uno dei microprocessori più semplici da utilizzare ovunque. Io all'epoca, subito dopo le superiori, feci un colloquio in una azienda che faceva roba di elettronica, e gli ho detto: io ho studiato purtroppo sul vecchissimo Z80, che poteva fare molto poco. Non mi hanno assunto perché loro facevano tutto sullo Z80, cioè era usato ovunque. Quindi io ho letto, tra l'altro, cercando, che non so se sia vera questa cosa, ma pare che è stato il chip integrato più utilizzato della storia, perché all'epoca penso fosse stato uno probabilmente degli unici, che uno dei pochi che c'erano, è stato utilizzato probabilmente in una quantità di oggetti assurdi, da ColecoVision, il Sega Master System, il Game Gear, il Mega Drive, ed era anche all'interno del Motorola 68000. Quindi penso che è stato ovviamente ovunque, in qualsiasi posto del mondo. Ma magari poi c'è nei processori che usiamo ora qualche resto di sviluppi suoi, però questo non lo so, conoscendo l'evoluzione dei chip può anche essere. Bah, comunque davvero devo dire, come ti dicevo, mi è stato interessante leggermi questi progetti, più che altro per imparare qualcosa di nuovo. Cioè io, onestamente, il nome Z80 ce l'avevo in testa, però non sapevo esattamente cosa fosse, che non l'ho mai usato. Quindi tutti questi mi hanno fatto imparare qualcosina di nuovo. Se avete voglia, dateci un'occhiata a questi progettini, che sono davvero molto interessanti. Su hd.io c'hanno davvero sempre molti progetti ben fatti. Se seguite l'account Twitter, ve li postano, ed è davvero davvero, cioè, si scoprono cose che uno diceva: ah sì, ma si può fare questa roba con questo processore qua, ecco, sì. Ok, allora direi che per oggi, anche oggi, come abbiamo detto, è una puntata un po' più corta del solito, perché abbiamo cercato di separare due parti che l'anno scorso mettevamo insieme. Quindi, se non abbiamo nient'altro da aggiungere, io avrei due cose proprio zip veloci da sparare. Assolutamente sì, spara. Ok, allora questo è un angolino che io ho sempre voluto avrei sempre voluto portarvi, darvi qualche piccola informazione di oggettini o di cose o di software, di quello che volete, carini, che fanno una sola cosa ma molto bene. Oggi ve ne porto due. Allora, il primo è una cosa molto semplice. La domanda che a qualcuno di voi sarà stata richiesta: mi dai la tua chiave SSH pubblica per poterti sciarare qualcosa, criptare qualcosa, eccetera? E la risposta è quello di un link, se usate GitHub in particolare, se voi utilizzate il vostro link GitHub, quindi github.com/Francesco, per fare un esempio, .keys, ti esce direttamente la chiave pubblica tua. Quindi se io so semplicemente il tuo nome, posso tirare la tua chiave pubblica direttamente in un mio script, in un programma, una roba del genere. È una cosa molto carina e molto veloce. E questo è il primo. Il secondo è una cosa che mi ha fatto un pelo, come dire, godere di comodità, perché come chi di voi si è messo a mettere le mani all'interno del cron tab di Linux, di molti sistemi Linux che utilizzano per schedulare i processi, sapete che la sintassi, diciamo, se ti leggi la documentazione sai com'è fatta, però può sempre capitare che sbagli uno spazio, ti dimentichi, eccetera, e cominci a lanciare processi a periodi a caso, a tempi che non volevi, eccetera. Ho trovato questo simpatico sito che si chiama crontab.guru, che fondamentalmente c'hai solo una casella di testo in cui scrivi la sintassi di crontab, di quando deve girare un processo. Lui ti scrive su: questo processo andrà a ogni giorno, ogni ora, alle 4, alle 5, ogni minuto di ogni ora, eccetera. Quindi è un modo semplice per scriverle e per controllarle. Quindi penso che queste due piccole cose potrebbero esservi utili in futuro. Quindi, guarda, quello del Crown Tab l'ho visto ed è finito di volata nei miei preferiti più preferiti. I mega preferiti. Sì, perché con Windows è facile, tasto destro, due spunte, finito. Il Chrome Tab da pianificare bene e poi non ti ricordi mai se vanno prima le ore, prima i minuti, se le settimane partono da zero domenica o da zero lunedì. Lì c'è tutto, è fenomenale. Infatti devo dire che io sto proprio il mio progettino, sto mettendo un po' su robe legate a sensoristiche eccetera con Raspberry, quindi questa è una cosa che mi andrà via come il pane, diciamo. Sì, il Chrome Tab lo userai spessissimo. Anzi, se c'è qualcuno all'ascolto che conosce molto molto bene il Chrome Tab e sa come si pianifica una cosa tipo il primo lunedì del mese, io ascolto molto volentieri. Guarda, perché questa cosa Chrome Tab non la gestisce. Sto dicendo, no, in realtà sì, vai su Chrome Tab Guru, ho scoperto che l'ultimo parametro è il giorno della settimana in numeri. Se metti uno è il lunedì. Ah, il primo lunedì del mese, quindi non ogni lunedì. No, io voglio il primo lunedì del mese. Ah, e non so se si può fare. Perché nel mese... Esatto. Vi ho lanciato la sfida. Sono sicuro che si possa fare in qualche modo pervertito e molto azzeccolato, però semplicemente in Cloud non lo so. Vabbè, se qualcuno lo sa... Venga sul nostro fantastico canale di discussione su GitHub e ce lo posti lì, così rimarrà ai posteri. Esatto, esatto. Ottimo, quindi io direi che per la prima parte è tutto per oggi. Se non hai nient'altro da aggiungere, puoi dare i contatti e salutare i nostri ascoltatori. Ok, allora io do i contatti però invertendo l'ordine. Diamoli per importanza. Ci siamo accorti che siamo un po' troppo frammentati. Tra me e Mario abbiamo difficoltà a gestire la mail, Facebook, questo, quello, quell'altro, quindi vi invitiamo calorosamente a usare la nostra nuova board su GitHub, che è github.com/gcookies/gtalks, non è il caso che ve lo segnate, sul sito c'è, vi registrate su GitHub, è un forum. Se avete qualche cosa da dire, da comunicare, di cui discutere o qualche domanda, scrivetela lì, perché così resta lì per sempre e per tutti. Tutti possono leggere e tutti possono eventualmente rispondere, e sappiamo che è accentrato tutto quanto lì. Noi useremo comunque gli altri canali. Se volete farci una domanda personale che non volete che la comunità legga, è ovvio che potete usare tranquillamente la mail. Se non usate le conversazioni di Facebook, siamo più contenti, perché sono veramente scomode da gestire. Devo essere sincero, abbiamo fatto 4 chiacchiere con alcuni ascoltatori, ma dal telefono diventa un casino, dal web ci metto 20 minuti per trovarle le discussioni, è sempre un po' un macello. Quindi siamo rimasti d'accordo con Mario. Se possibile, scriveteci su GeekTalks su GitHub. Ve ne siamo fin d'ora molto molto grati. Volevo ringraziare un po' i ragazzi che già hanno scritto, tra cui Davide e un altro paio di persone. Abbiamo già cominciato a Marco, tra l'altro, poi vabbè, Giuliano, io e Francesco siamo per ora quelli che hanno scritto, però c'erano già un paio di argomenti interessanti. E quindi se volete venite a dare un'occhiata e partecipate, cioè qualsiasi cosa che vi viene in mente scrivetela lì. E se avete anche io una mia idea è quella poi in futuro di postare anche un po' di cose utili, tipo script per settare il Raspberry o roba del genere, possiamo fate una richiesta di merge nel nostro repository, ve l'accoglieremo, potremo poi discutere su migliorie, progettare robe future eccetera, e andare avanti un po' con queste conoscenze che stiamo racimolando lì. Perfetto, poi comunque ci trovate sempre su Twitter at gcookiescast, ci potete mandare una mail a gcookiespodcast@gmail.com, il nostro sito dove c'è comunque scritto sempre tutto è gcookies.github.io, siamo su Facebook, ci trovate su gcookiescast, siamo su Google Plus, anzi c'è più Mario e qualche altro fantasma, suppongo, a gcookiespodcast. E poi ovviamente siamo sui due canali più importanti di podcast, iTunes e Stitcher. Se ci mettete recensioni e stelline siamo contenti. Poi, se comprate su Amazon e comprate con i nostri link, ci date l'opportunità di ricevere una piccola percentuale di quello che avete speso, senza voi spendere di più. Quindi, anche se dovete comprarvi la lavatrice e entrate su Amazon passando da uno dei nostri link, una piccola percentuale va a noi. A noi serve per comprare software, comprare hardware, oppure comprare qualche piccolo gadget per magari fare qualche altro gioco, come qualche puntata fa che ci siamo divertiti molto. E poi vi ricordo che la sigla è sempre presa dalla piattaforma gratuita Jamendo, ed è dei Pornophonic. La canzone si chiama Sad Robot. E non c'è più il codice sconto per le schede della UU2, che è finito il mese scorso, quindi direi che abbiamo chiuso così. E direi a questo punto non ci rimane altro che salutare tutti gli ascoltatori che ci ha seguito, e quindi un caro saluto da Berlino da Mario, e un saluto grandissimo da Francesco da Torino. Alla prossima puntata, ciao.